amico mio che stai guardando intorno a te, non credi agli occhi tuoi, tu piangi e so il perché. Quel che provi tu lo sto provando anch'io, ma non cambiare mai. Ti fa paura il mondo, amico mio, coraggio. Io piango come te. Vedrai che il mondo cambierà le sue ferite. Guarirà l'amore, no, non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine. Vedrai la notte finirà e l'uomo si risveglierà. Dire mai. Se nella mente tua nascesse qualche idea, coraggio, amico mio, il mondo aspetta te, ma non cambiare mai e non scordare che via via che salirai gradino per gradino ti sembrerò lontano, ma io sono uguale a te. Vedrai che il mondo cambierà le sue ferite. Questa è la fine. Vedrai la notte finirà, vedrai e l'uomo si risveglierà. Dire mai.